diciamo che migliora ancora, su quelli qua non c'è tu più, no, questo c'è ogni giorno, a me è una cosa, ma sono cibi virtuali, no? Sono a vivere da quarto, ma sono virtuali. No, mi vuole lungare tutti i passati, sì, grazie, parla piano. Sto passato. Aspetta, abbassa un po', va. Claudio, che ti dica? Stavo dicendo che stavo giocando al poker, vedevo un rotto e scatto, ho detto, se parlo questo, che ho, poi non c'entro più, perché mi sono ambisticiale. Il poker è così, caro mio, il poker è così, sia computer che di persona, devi sempre avere contatto diretto, non andava. Come si gioca perché a poker su internet? Ma su che si gioca? No, sono virtuali, vabbè, no? Ma che volevo dire? Praticamente tu sei iscritto su Facebook? No, io no, mia figlia si è voluta iscrivere perché c'è tutti i compagni di classe. Ti iscrivo su Facebook e da lì entri al poker. Sì, ma come fai a giocare? Cioè, a poker o giochi quello di avere, se no non fa, cioè non esiste. È virtuale, roba, mica ti danno loro, però piano poi se vinci, io ne ho 19 milioni adesso. Non è facile arrivarci. Figurati chi ne ha un miliardo, qui ci sono da tanto tempo. Come se sono da poco, sarà 3-4 mesi che gioco. Quindi ognuno c'hanno 10 anni. Ma poker è vero o come si chiama Teresina? Che tipo di gioco fa? Poker. 5 carte. Due ne hai tu e 5 Teresina in terra. Come si dice? Ti siedi a tavolino, è facile, già sembrava difficile, guarda anch'io, la prima cosa, ma questa cosa è come difficile. Una volta che prendi la mano, che vedi il gioco com'è, è una cazzata. Non lo so io, giocare così senza soldi, cioè veri, non lo so se, perché no, cioè bluff, tutte le cose, non lo so. Il poker, non bisogna giocare a soldi, ma se devi giocare solo con i soldi veri, così la persona la devi vedere vicino, vedere gli sguardi, le cose. A me mi piace giocare, però ti prende la malattia. Sì, quello sì, Roba, sono d'accordo con te, però questo è virtuale, per ammazzare il tempo. Allora, a me è capitato, da poco, ieri mi sembra, ieri, questo tipo, faccio una stravagante, ne aveva più di me, mi sembra. Io ne avevo 16 milioni, mi sembra, no? Vabbè, non mi ricordo. Mi fa rilanci alti, e mi fa sempre questi rilanci alti, lo seguo, diciamo, dove sei in mano? Uno me lo gira in terra, sono tre, un tris, no, cosa fai tu? Continui, giochi, no? E ho giocato. Poi c'era la scala in terra, mancava una carta, l'otto, e allora mancava una carta per fare poker. Ma dopo mi fa all in da 750, quasi 800.000 mi fa. E io ero lì, però casuale al tempo, no? Meno di 10 secondi. Questo rumore, non lo senti? Cazzi, tu vuoi la fatto qua? Ma a rischio. Gli vado dietro, lui ha fatto scala, e io gli ho fatto un poker, l'ho fregato. Ci è rimasto male. Ma tu sei con questo rumore, Luca? Sta portata mano in bosco. E non ti va tenuto a fede. Ma vabbè, comunque, non ti hai capito, sì. Sì, che ho capito, no, ti ascolto benissimo, sembrava un difetto, un rumore di qualche, cioè di sottoalimentazione di apparato. Lascia che cambio di cazzo, capito, sono un qualche testa di cazzo, può fare una cosa del genere. Non fa niente, lui, se tu senti a noi, qua ne freghi 10, 9-10, lui ci deve entrare da tu, vai a tu. Ehi, positivo, beh, c'è sempre stupido il turno che dice mette e mezzo, ma preghiamo, cioè qua passi alla grande, non c'è problema, come passa Roberto, passa Claudio e passi tu Luca lì, non ti mettere problemi, vai avanti tranquillo, fai il tuo QSO tranquillamente, che non ce n'è per nessuno, vai. Beh, qua 9:40 la portante, la passate, ma appena, ma ho capito già chi è. Vuol dire mi divertino io allora, mamma la puttinuta, se vogliono rispetto, rispettano, e se non rispetto neanche io, me la puttinuta a me. non me ne fate proprio un cazzo, sono bravo e caro, come faccio tu, guardi qua sì, e il computer ti piccola anche subito, non ha dei problemi, e per il computer sì proprio, ma tutto un cazzo a me quando sei grosso, alto, maschio, combo, grasso, non mi dai saluto a me, vabbè, sono vabbè, rispetto, e tu non fanno bene a nessuno, siccome non ce l'hanno, e allora agisco così. Sono fortunato a noi di quello che fanno sono gli altri. Io sono qua, c'è un canale unico, proprio tutte le batterie sono spente. Non mi va più neanche di sentire altra gente. Sono qua e qua rimango. Questo è il mio motto già dall'anno scorso. Se voglio fare radio, se poi non voglio fare radio, tengo spento. Siccome c'è Falchetto vicino a me, c'è Roberto, Luca arriva fortissimo, c'è tu, c'è tutta la parte di Alghero che sta entrando quasi ogni giorno, perciò non ci possiamo lamentare. Adesso pure d'inverno, già ho telefonato un paio di persone che stanno rispolverando la radio, vedrai che pian pianino si ritorna alla normalità come eravamo prima, sul canale 10. Poi tutto il resto è noia. Il fari si illumina tutta la galleria, che è partito, lasci che è attaccata alla parete, è partito, e mi c'è cuta a me, che è proprio a me mi c'è via così. Leonardo, mio prossimo, mi c'è cuta a me, c'è cuta, ma ti è caduto in terra una cosa così schifosa, cazzo, ma com'è? Noi abbiamo caricato, abbiamo lagato in Chivi, mamma mia quanto è brutto, ragazzi. È un topo volante, per me è un topo, c'è la testa del topo, cazzo. Guarda che troppo bene mio, sai, perché c'è un mese e mezzo a vento. Perché mi c'è un topo di sera, poi andiamo a fare nel culo. Mamma tu ci che ti brucia e quindi niente l'unica cosa è toccata, cerca di buttare la pulata a casa, attaccata, se fa lui di bocca, come che ha avuto la bruciata la viva, e c'è una bocca lì, la burletta, viva, roba davanti, viva, salsa del briaga, comunque la viva. Allora subito siamo scelti la guardia medica, ha fatto una puntura, dice che è stato operato con una medicina che usano, non so cosa cazzo sia, perché lì quest'anno proprio la guardia medica era attrezzatissima proprio per puntura la Vespa. Ha fatto strage, guarda, strage. Era pieno, un cazzo pieno, quest'anno non ne ho mai visto, ma l'anno scorso c'era qualcosa, quest'anno proprio una cosa allucinante, da tutte le parti, non ti potevi muovere, era tutto pieno di vespe, tutto pieno di vespe. E vabbè, cazzo una gatta, non ha, è molto caro, tutto va in piedi, vai Antonio. Antonio si è mangiato la notte del religioso. No, a me mi è capitato, te l'avevo detto, no, sono andato al mare, e si avvicinava questa coppia, dice, e si sono messi a parlare più o meno, se sapevamo qualche spiaggia bella o della sabbia bianca e cose, no? Beh, parlare più o meno, attacca il discorso della Sinara, dice, siamo stati alla Sinara, io me ne scampi il libro, tutto pieno di vespe, ci hanno mangiato i panini, ci hanno mangiato il pepe, poi ci mangiavano anche a noi, e basta, come si arriva, ha detto, buh, buh. Non ci credo, l'ho detto io, stavo vedendo, hanno camminato in macchina, Poi passare con i finestri chiusi e con il fiato acceso, perché se cammini in macchina con i finestri aperti 30 metri la macchina e ti va per il cavo, perché se guarda Marco te ne accorgo iniziano a pungere, capito? Il mio collega ci vada sul braccio e lui ha cercato di dare un colpo, così la cottura, una manata, è risentato un bugiglione, gli ha fatto il braccio ma non voleva visto, l'ha mattata proprio il bugiglione dentro il braccio, cazzo non voleva visto, gli si è fatto il braccio nero. Poi quelle che sono talmente grandi perché non le toccano, capito? Nessuno le dà fastidio, quindi diventano enormi queste vespe, non sono come chi si vede, no, i cuscini, no, quelle buco, non so che cazzo mangiano, ma c'hanno nidi da tutte le parti, che quest'anno il depuratore di Caloni qua ci sono andato due volte, perché nelle scarpe c'era il depuratore tutto pieno di nidi di vespe, quindi se tu salivi e li muovevi, le mani di chivi, ti va a pezzi. Sì, ci credo, chiamalo, non ci credo, è voglia che ci credo, un casino è, mannaggia gatta, e non sono riusciti a eliminarle queste vespe, no? Puoi eliminare la tua vespa, non mica puoi buttare il insetticida così, no? Beh, se poi c'è altri insetti particolari della forma di tutto, ammazzi anche quelli, capito? Un insetticida con le vespe è micidiale, ammazza tanto vespe. Lì ci sono lucertole, ci sono cose che stanno lì, quindi buttando l'insetticida non fa. Devi andare piano piano con l'insetticida a raccola e spostare dove ci sono i nidi, allora dici un po', ma è un lavivo, cazzo, vivo 3 anni dopo a fare una cosa del genere. Invece stavano decidendo di far passare 8 volte e buttare direttamente l'insetticida tutto lungo i percorsi che ci sono. Però il parco non era d'accordo perché dice che poteva causare danni alla fauna. Infatti è vero, perché con le vespe l'insetticida proprio molto molto forte è mortale anche per gli altri insetti, per le lucertole piccoline, anche per gli uccelli piccoli, perché è tutto pieno di roba particolare, quindi non è che puoi fare una disinfestazione così, non va bene, e quindi sono rimasti, cazzo, ma rimasti, bravo. Tutto, quei voi così, gli sportelli dei quadri elettrici, tutto pieno di due vespe, da tutte le parti, vespe, rappi. Carità, cose brutte sono, prendi a te, vado zia a Gadria. Non sono ci mi piace il microfono, è bello, quello lo spante, non fate sia un vecchio microfono. già funziona bene. Eia, no, è di lusso, scappa Rogero. Per poco occupo la mecla, occupo qua, io ho come essere, io lo sento bene. Non è eccezionale, è comunque un microfono di chi si è guarito, è giusto per fare andare il mobico che era sempre fermo, poi stiamo mettendo a posto l'M500, andare messo a posto quello dovrebbe cambiare un po', ma per usarlo così, fare questo locale già va bene. Ah, quello sì, è cappa, cappa, cappa, via. C'è freschetto, Freschetto, solo un mondale a 21 lui, lo c'è freschetto. È lì magari più basso, l'aria un po' più fresca dal mare, qua non si sta bene, non c'è un filo di vento. Non so che fa la garderia, ripieni anche tu. Dove si è separato la garderia, vero? Ui ui, merda Maria. Ecco, si è assustato qui, è spaventato di brutto. E tu la boiana, non so che hai detto la gamba, la boiana, c'è solo la magia, non mi dico. Fai, c'è la famiglia che mi dice, vai tu, vai, camminendi. Molto probabilmente, ha visto che si è andata lì da morendi. Se che boiana, Ah, allora bisogna dire a cui di che costo. Infatti. Ma poi io dico che Antonio Pomponi è un grande succhiatore di uccelli, non ci crede lui. Senti là, pugnettone. Allora, grande succhiatore di uccelli, non con pugnettone. Che grillo, che cosa? Poi che muscolo? No, Atole. Ma? Che ti sono un uomo di morte? Sono giù di là per fare i violini. Ti ho visto, molto buio c'è un uomo di morte. Si fa di... fa di compagnia con un uomo di l'ho sentito, purtroppo magari lì era sofferente lo stesso, capito, magari c'erano anche, lì era stata operata al seno tantissimi anni fa, aveva spostato il seno, diceva con una malattia brutta, anzi, è durata anche troppo, è durata. Stavo dicendo, adesso i figli che hanno adottato si vedono tutto quello che hanno lasciato. Cazzo sono i figli, la mamma Buru. Ci hanno portato la mamma e questi due filippini, gli alleati, capisci, patrimoniali di una ragazza. Via. Quando la visita io mi voglio adottare, mi voglio dire che i gamboni, mamma la migria. Purtroppo è così, se ne notano chi sono stati più vicini, e purtroppo è così. Lascia la figli, mamma mia. E va, figlio di lui, fa di voi, mi dice. Lascia il soldino che c'è quello lì. Ti prende lui, ma con il loro tempo ti prende anche il padre, no? No. Lascia il liceo, lascia il saghivi, pacare, dai. Ui, ui. Se ci vuoi più di casa, sì. Ciu, ciu. Lascia che abbiamo visto la sera, Paolo. Eh? Uscendo anche da su, abita attaccato a Antonio. Raccontami, grazie. Siamo un uguale, cazzo, grande, bello, robusto. Sempre là, arrivato. Sono una cipristallina, no? Sì. Basta. E poi io attacca, ma lì, gatto di guarda, il fatto da fare le mura ienti. Fai in gamba. Ci ho lavorato 4 mesi con quello, mamma mia. È una cosa impressionante. Ecco un figliolo, ormai zicchito. Si dormiva in piedi, povera. Si dormiva in piedi, io non ho mai visto la facciata, non è andata in piedi. e quello si grazie scendi cazzo cosa con cazzo di giornale che mi sono sul capo ma guarda cazzo dico che pigliava e prego il muore ricordo che si andava c'è quella l'officina che scendeva a moglie Gigi per carità cazzo vuoi trafficina voglio vedere un amico a pochette come scio Maria pezzo faccia dei tempi questo tipo con la papesa in mano, ma grande, di nuovo a lui anni, forse quelli anni non gli hanno dato a sono entrate dentro le negre, questi tipi erano seguiti, ha detto Marco, sono tre qua, ma ti gioca su due pusciate a testa e pure lo sai, com'è, ha già fuggiti. Sei un bambino, sei una persona che non vuole un cazzo, capito? si affronta, gli uomini discutono, gli uomini chiacchierano, ma quando uno si nasconde e non vuole affrontare l'altro, si è un miserabile, si è zero, capito? Si è zero, sotto zero, tutti non vai un cazzo, tu avrai anche 50 anni, 60 anni, sei sempre zero, sotto zero. Perché ribadisco, sbaglio la mano, quindi nascondersi dietro il microfono o mettere la portante o affrontare le persone che tu non sai neanche come possono reagire, sempre dietro un microfono, sei sempre un miserabile, ahimè, lui, tutto l'ora che noia. Lo so, vabbè, se siamo dietro non si gioca, se siamo qua per passare il tempo, dietro stronzate. Ce ne capiamo gli uno con l'altro, ma che cazzo, tanto qua di uno entra, che cosa? Infatti molta gente ha detto, non c'è più nessuno a baracchino, gente che ha rotto il guglione la rottura, c'è più di lanciarli. Non c'è gusto qua, non ti diverti più, perché magari non so, ho trovato un argomento bello, parlate di una cosa che mi interessa, tu mi viene a quello che disturba, mi passa la gana, che non è più, non c'è più cosa, più, quello come sono fatto io, sono con voi, no? Sto parlando con voi, a secondo com'è, ma non mi va, abbasso il volume, ma no, se neanche vi saluto, non tanto, molte volte, lo faccio sempre, ma non per cattiveria, così non, poi mi trovo un attimo, sono al computer, sono impegnato, sto giocando, abbasso il volume, ma no, te ciccia. Beh, ognuno c'è suo modo di fare radio, però quei discorsi che ti hai facendo sono affari personali, giusto per farti capire alcune cose che potrebbero essere valide per qualcuno e a qualcuno non interessare, io alla radio ci tengo, quindi ho deciso di fare radio a modo mio, vedo che la gente dove ci sono io sta entrando, entra, saluta, rimane 10 minuti, un quarto d'ora, un'ora, poi giustamente va via. Non c'è problema, però sono abbastanza contento che io riesco a fare tutti i giorni le mie chiacchiere con chiunque senza che nessuno me lo rompa le palle, anche perché qualcuno che possa permettersi di rompermi le palle non credo che ci sia Sassari, perciò sempre nella modestia, ma più che modestia è la realtà, capito? A chi mi è un bel niente che è convinto di farli di grossi malabui, in realtà tu fa un bel poco. Perciò facciamo radio e togliamoci nelle balle di quelli che fanno radio diversamente da noi, o da me soprattutto. Io non chiedo più niente a nessuno, non voglio più sentire nessuno, soprattutto non voglio dire più chiaramente di nessuno. Io sto bene qua. Quando qualcuno viene a rompermi le palle, tu lo sai, ci sei già passato. So come difendermi e penso che batti una lezione solo, no? Neanche la seconda lezione, ne batti una solo che si mette subito in carreggiata con me, poi con gli altri non me ne frega assolutamente niente. Stai pur certo che io non mi dico con nessuno, non c'è problema, non ci vuole da cagare di niente, ma un bel, perciò. Poi continuo a fradicio di biardi, poi si è portati uno con l'altro, io non so neanche di cosa stai parlando, perché non conosco nessun Massimiliano, non so di chi stai parlando. Perciò, nulla, non me la frutti più, nulla di nessuno, guarda tu. Positivo. La nocciola, ebbene, in effetti così. Poi la più fine, quando non si parla con determinate persone è perché c'è quel motivo valido, basta, tutto lì il discorso. Io sono del parere che quando si fa un QSO si deve fare tranquillo, sereno, senza queste cazzate di portante, controportante, no, non attacca mai a nemuno e niente, si deve fare radio nella radio e basta, tutto e basta, riprendi Luca. Allora, ti ricordi quella famosa domenica? Non so, non ricordo se 2 anni fa, forse non l'avevi detto tu, che c'era una portante e questa persona fa che tu sapevi benissimo che io stavo lavorando, no, un amico culturale, e questo qua fa, e c'era una casetta piccolina, insomma, ti ricordi la famosa persona? Sì, sono entrato io, l'ho ripreso in maniera quando uno dice una cosa deve essere sicuro di quello che dice, ma molto sicuro, perché altrimenti poi non va bene, diventano sempre più complicate le cose di fare radio, per fare radio. Infatti, vedi, le montagne si tirano la pata ai piedi. No, no, vabbè, lasciamo perdere, che mai me l'ho sempre accusato. Me l'ho sempre accusato, perciò non... Che la fai? Infatti. Non lo sai, diventi cattivo, non rifletti più e fai cazzati, vai. La cosa va che giocattoli. Una volta, è molto attenti. Ma sei sicuro di prima di quello che dicono. No, Pianiate l'hai visto, no, deve essere sicuro, è quello, va bene, vai a buttargli la porta se è quello, quindi prendi e butti così, no, me l'ha sempre accusato a me, sempre, perciò non la sua appelliva, se non la buri, e nasce veramente un casotto, si mettiva a mazzappa a me, infatti quasi muoio. Cervello, capito, di accusare persone quando non c'entrano niente, come hanno fatto a me l'anno scorso, la stessa cosa, in questi locali, ma lì non ci faccio più caso da male, ma è una parentesi chiusa e mi fa benissimo così, guarda, non volevo proprio l'ora di poter avere questa cosa così, vabbè, una cosa certa che dove sono io la gente entra, parla, si diverte e discute tante cose, quindi non ho problemi di dire che non sto facendo radio, avevo a me l'intenzione di non farne più, ma devo dare troppa soddisfazione, siccome sono abituato a non dare molta soddisfazione e perciò ho deciso di fare così, anzi mi vogliono fare ancora peggio. Fanno ancora peggio, diventano pieno, perché invece modulare a 50 watt modulare a 500 da quassù, come facevo ai vecchi tempi. Poi vediamo se c'è qualcuno che può entrare e dirmi qualcosa, così rispondo come rispondono gli altri. La roba mia è costruisce come mi piace. Avanti anche tu. Lei è positivo, è bene fatto così. Non è che uno deve accettare che le sono state fanno gli altri e basta, non esiste proprio. Diglia per puntiglia, uno fa la radio come la come ritiene giusto di farla, punto e basta, è inutile che siamo a cavalli di luce l'uno con l'altro. Invece uno va della sua radio tranquillo, sereno è pacifico, poi chi vuole ascoltare ascolti, chi non vuole ascoltare è libero di fare quello che vuole, così è. Sì, insomma non c'è problema, è un discorso già che sta diventando pesante perché non mi interessa proprio, guarda, è una cosa che non mi riguarda più, ripeto, ribadisco che ognuno può fare radio come e quando le piace e con chi le piace soprattutto, attenzione. Io faccio radio da tutte le parti perché non ho problemi con nessuno. Se ti dice bizzardo, chi ne andiamo, non ce n'è per nessuno, quindi. Io sono qua, sul canale 10, con te, vedo che entra Luca, entra Roberto, tanto meglio. Sta iniziando ad entrare dal mio perché appena ce l'ho giocutturato la vecchia al telefono. Quindi adesso sta rimettendo un po' tutto a posto perché aveva cambiato stanza, spostato tre radio, eccetera. È tanto sano, la gente entra a parlare, non c'è problema, non c'è problema, anche se negli altri canali ci sono altre persone che parlano, per più o meno si fanno i cacchi loro, ognuno è libero di andare dove vuole, vuoi parlare sul 10, vuoi parlare sul 10, vuoi parlare sul 5, parli sul 5, io non ho problemi con nessuno, non voglio avere più, nel modo più assoluto, perché ho deciso questa volta e qualcuno si fa male veramente, quindi a me mi lascia in Santa Barbara, a me non mi svegliano, ma che non si vuole svegliare nessuno, perciò delle portanti che ci mettono, quello e quell'altro, non conosce nessuno io, non conosco proprio nessuno, ma tanto non mi disturbano mai, se mi disturbano mai io già mi so difendere, mi so difendere, mi posso andare alla radio pure, non c'è ne problema, quindi a voi direttore poche parole, un discorso che non mi riguarda proprio più, zero sotto zero, ognuno faccia quello che vuole, l'importante non mi blocchiare a me, a chi ci mette per magata. Infatti. K, K, K e K. Riprendi Luca. Ui, uia. È inutile, inutile non ripeta più volte, sono giocattoli. Se vedi, non si giocattoli, giocavo quattro minuti con un lascio. È meglio, meglio evitare, ma perché sapeva, ti trovano. È un casino vero. Allora è meglio che ognuno se ne stia in casa sua e poi si porta i gatti suoi. Ma no, scusate che se ne è stata anche la lavoro, non l'ho neanche salutata, quindi mi stava attaccando. Sì, ma tu, cioè, noi abbiamo avuto un conflitto, non è differente, eppure siamo in situazione, abbiamo chiarito tutto, basta. E così devono fare gli altri, cosa vuol dire pulire la porta a te, io sono più forte di te, tu sei più forte di me, forte da dritto, capito? Per essere forti bisogna avere apparecchiature, potenza, antenne sopra il tetto e soprattutto essere bravi in radio, passi fuori, ci mettono benissimo anche di lì. Sì, ma infatti, bisogna anche guardare un po' i fatti. Perché se uno fa, per esempio, prendiamo l'esempio tuo, no? È capitato molte volte, magari senti qualcuno che la radio non ti piace, no? Gli amici. Dici che un tipo di radio non va bene. Oppure gli dici che ha dei piccoli, insomma, dei piccoli accorgimenti da fare. E allora la seconda che trovi li accetta, la seconda che trovi prende si incazza. Eccolo questa. Ma che cosa vuoi là? Una persona adulta, ecco, chi va in tratti due, esce di male, sta più male, da tutti i bimbi, quando non va bene, sta facendo bene a posto, e così, non sai, non si sente niente, no. Perché tu siccome hai visto, non è che ti piace quando la persona esce bene, perché l'ha sempre fatto, ma dipende, io per esempio accetto, come ti conosco. Ma io ho parlato un'altra cosa da Claudio, avevo anche io così. Io di persone perso è tutta un'altra persona. Ho parlato con tante persone che magari, vaffanculo, sono caduto, cazzo. Che magari non pensano che sei cattivo, ma non è così, là. È un comune di fare al baracchino. Poi, fuori dal baracchino, c'è un'altra persona. Tutto qua. Comunque non sono tutti che l'accettano, eh. Segnato che la radio è fatta per dialogare di cose di tutte le maniere, quindi soprattutto di opinioni, che siano buone le opinioni o che siano opinioni di critica, perché così è così, anche lo statuto nazionale o internazionale a livello mondiale del radiantismo, sia italiano che estero, parla proprio di opinioni, critiche, autocostruzione, un po' di tutto, quindi nessuno si deve offendere quando una persona dice, io o chiunque dice, stai scendendo male, chi sono i microfoni, ragazzi, non c'è nulla, che là, non è un'offesa, si sta discutendo, si sta parlando, ma siccome qua a Sassari sembrano tutti nati sul piedistallo, invece sono nati come dice con Adriano, e quindi ho capito che poco si può discutere, pertanto non mi interessa discutere più con nessuno, di nessun tipo, capito? Parlo con chi pare piace a me, discuto con chi pare piace a me di altre cose, non di certo andare a criticare la radio di quella, la radio di quell'altra, non me la fotte proprio più nulla. Ho deciso così e così deve essere, non me ne fu tenuta. Non verranno cambiate determinate cose che mi sono state dette, perché non verranno cambiate mai, mai e poi mai, perché l'ho giurato sulla tomba di mio padre, che io con determinate determinate persone non avrò più niente a che fare, proprio zero. E quindi me ne rimango tranquillo e sereno per i fatti miei e parlo con la gente che apprezza i miei discorsi e le fa piacere parlare. Con quelli che non le fa piacere parlare rimango dove devono rimanere, cosa cazzo me ne affutto a me. Ma fatti capire, non tutti lo accettano, per esempio se tu mi dici poco aperto, lui parla piano perché stai trattando, non si capiva niente. Secondo magari, vabbè, quello diciamo per una cazzata, però secondo chi, per esempio, entra uno con un ecco, no? Tu dici, ma tu non ti piace, magari che c'è quello che ti piace, che va bene, ecco dove sta, magari che c'è la guerra, capito? E lì, ma tutto, tu già vai. Se non ti piace qua, ignora tutti i dini, stai facendo bene, boh, lo ripeto, se non ti piace mai come vulgano, fate la fastidio la notte. Capiscono le parole bene, senti quello che ti dice, senti quello che che stai ascoltando, che sta dicendo, è un conto, la grande niti, bla bla bla, ripetizione, cioè è un mal di testa continuo, capito? Non ne vale neanche la pena di ascoltarne, ecco, io sono di quel parere lì, poi ognuno è libero di uscire con l'ecco, le calecca, le calure, con tutto quello che vuoi. Se a me non mi va di parlare con quel tipo di modulazione, non ci parlo, basta tutto lì, finisce il discorso. Infatti per rispondere a Luca ero deciso che non me la fottino da nessuno. Capito? Poi io non ho mai offeso l'orario di nessuno. Io ho sempre detto, a un certo ora, quando uno in cuffia è chiaramente fastidioso, basta. Poi chi si offende, chi alza la voce, che fa due quelle pozzette, a me da una reggimento la finisci. Non ho mai avuto nessun problema. Io è dal 1985 che uso questo microfono e questo tipo di modulazione e ne ho usato tante, ma tante, tante, per scattivare, per divertirci, tu lo sai, ce l'hai con macchina, l'ecco, ne ho venduto, baracchini con l'ecco, ne ho baracchini con l'ecco, ho un microfono con l'ecco, non mi va di usarli, non li uso, no, non mi interessa, capito? Non me ne fotte proprio nulla, quella è l'ultima cosa che sto pensando. Sono altri discorsi che non sono riuscito a capire e quindi ci ho messo una pietra sopra e va bene così, non voglio neanche più parlarne di queste cose perché non mi interessa. Vedete benissimo, io entro in radio con molta tranquillità, con molta così educazione, perché ho abbassato anche i toni, anche le... La voglio rincazzarmi perché sto pensando a fare altro, non certo a parlare di ecco e a bisticciare con la gente. Sto a farmi due chiacchiere la sera con Antonio, con te, con chi vuole entrare, per carità, il canale di tutti non è che il mio. Quando vuol dire entra una persona che a me non mi va di parlare, io mi sposto di canale, non c'è nessun problema. Non è che io impongo alla gente, il canale 10 è il mio e ci sono io, non entra nessuno, ma in modo più assoluto. Questo non esiste, paghiamo tutti la concessione per avere 40 canali a disposizione, perciò si può tranquillamente parlare in tutti i canali. È chiaro che per me, io parlo di me, quando nel mio canale, dove sono io parlo del mio canale, non che sia mio, ma nel canale in cui sto trasmettendo, entrano persone che a me non interessano, io sto zitto, oppure cambio canale. Questo è il discorso, proprio per evitare polemiche, per evitare problemi con tutti i problemi che sono nati e che qualcuno ha creato, forse anche io, la gente è andata via, oppure sono rimaste quelle poche persone che hanno voglia di parlare come me, e gli altri si fanno la complicola per i carte sui, a me non mi riguarda. Io ripeto, ribadisco, parlo con chi mi accetta, parlo con chi ho voglia di parlare. Come ha detto qualcuno, appunto, che con me non ci parla, ma manco per il cazzo me ne frega. Sono grande vaccinato, posso fare quello che mi piace, quello che mi fa di casa mia. Su questo non ci piove. Riprendi Luca. Qualcuno assolutamente, però non ci ha preso così fastidioso, ma uno può farsi ribare in piedi, può fare chi su di voi rinviare, ma non ha tutti nulla, non assolutamente le parole si erano già, quindi la cosa mia è altra, la radio adesso un po' mi sono spostato là perché ho sono sguardo, perché se mi sposto non so, aspetta un attimo. Comunque la parola se vuole scandire bene, invece con l'eco. A me piace un bermi, tu dici di gabbo. Però guarda, se riesco a farmelo, l'ho fatto solo ed esclusivamente per fare collegamenti con quelli del 45, non per fare casino assolutamente. Non lo so, non c'è più a farmelo quello là. La parte della scheda a fare la Russia, a fare la uovo, 200 euro. Adesso vediamo, se non voglia la faccio, se no. Ci non voglia, se vuoi dire, se no rimani così come te. Allora, vedi te fai te, ma io a te se ti dico a un padre che stai trappando, o basta che perché mi permetto, e conosco la radio, conosco a te, altrimenti mi sarei mai permesso di dirti. Quindi non c'è problema. Nel modo più assoluto. Comunque, ripeto. Va bene così, non c'è nessun problema, per me va bene così, sono contentissimo che, ripeto, io sono qua sul 10 perché era canale 10 e avevamo iniziato un po' tutti a parlare, va bene così, la gente sta entrando, mi fa piacere che entri, che chiacchiere, che faccia, non mi permetterò mai, nel modo più assoluto, di fare obiezioni su qualsiasi cosa che si usa perché non me ne frega più niente. Ma tu sei entrato a Saverio, me la vende sopra, non è giusto manco qua. Sai come entra Saverio? Molto grintoso, con l'eco eccetera. Non mi interessa. È entrato, abbiamo chiacchierato, non ci sono discussioni che si possano più fare e accettare. Capito? L'importante è che a me non mi dai a nessuno, a chi non me la futti più nulla. Io voglio poche persone che sono rimaste che parlano con me. Mi fa piacere, quelle che non ci parlano me ne fanno dubbio di piacerci. Avanti a tu. Positivo, eh. Sì, ne approfitto a salutarvi, se io non male trabacco. Niente, dai, salutone a Luca, salutone anche a te, Claudia, dai, fate un buon riposo, un buon tutto, e ce la riascoltiamo a domani, KK, salutone, belli a tutti, passate una buona notte. Ciao a tutti, buonanotte, ci aggiorniamo domani, anche stasera due chiacchiere ce l'abbiamo fatta, l'ultimo commento di chiusura. Poteva essere favorevole o non favorevole, ma visto che Luca l'ha tolto, no, l'abbiamo affrontato in maniera molto tranquilla, non ci sono problemi. Siamo sempre qua per tutti. Quando qualcuno si deciderà veramente di affrontare questo discorso, io sono sempre pronto, non mi nascondo né dietro il microfono né di persona. Basta c'è uomo e io vostro uomo. Ok, chi vuole capire capisce. Ciao a tutti, buonanotte, buon trabacco per domani, saluto a casa, ci aggiorniamo tutto domani, così vediamo se ci sono le tappe con il microfono e se non ce n'è. Vedremo che cosa fare. Ok, ciao, buonanotte, a domani. Tappa, ciao Claudio, buonanotte, ciao Luca. Tappa, ciao Antonio, buonanotte. E buonanotte per domani. Andava. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao a tutti. poi truscio. Va bene, quindi stai giocando a poker, stai perdendo, così. No, vabbè, io sono sempre lì. È che... poi mi butta un po' le palle. E tu hai due carte in mano, quello ha due carte di K in mano e ti rifaccio un gatto, cioè come per dire, io ho due K, no? Faccio un esempio, due K sono muri, come sono due assi, come sono un muro, due Q, due cette e così via. Tanto tu c'hai in mano un 9, un 10 e mi dici un gatto. Perché se ti diceva magari il 9 e 10 in terra, no, mi gira un K, io sono a coppa, tu hai la doppia coppa e ti prendi il piatto. Ecco dove mi errore. È quello, capito? Perché aspetti, come dico hai carte di merda, 2, 2, 3, il 3 del 5, l'asso del 5, capito? Carte sono cartacce quelle. Poi ti sono due carte bene, con la ti prendono due carte di merda. C'è così, ma ogni altro di balle. Certo che così ci iniziamo a spegnere un po' di radio. Va bene, dai. Ok, Lu, io sono a riposo domani, però me lo serve se andare a riposo a fare la luce. Mi arrivano una fermatinata, grazie a tutti. Mi arrivo a Pascoli, devi la luci, e non chiedo quante sei cose, ma... Allucinante. Va bene, dai, ti saluto, Lu. Me ne vado un po' di là, e c'è l'aria mia, mi tratta 10:30 a lavorare. Faccio due chiacchiere, dai. Ci aggiorniamo domani, stammi bene. Quando hai 2 minuti, vediamoci. E ci raccontiamo due stronzate. Ok. Ciao a tutti e buonanotte. Sì, guarda, qua dobbiamo mettere la posta la radio là. Quella là, capisci a me? Adesso c'è un po' di tempo, magari una sera salgo al limite, allora vi sviluppo se riesci a postare come devi postare. Non hai capito, senza dire niente. Avete le Luca, se mi ci stato lasciato a casa al computer, poi dopo c'è una certa al computer, ieri c'era Antonio, era tutta la sera qua, passato che erano le 5:30, c'era altro che erano più delle 8. Io sono qua a casa, adesso ho la mia stanza tranquilla, non ci sono per parlare nessuno. Non sono più accampato, come dirò via Pascoli. C'è volte le radio, buttate. Qua ce l'hai visto, finito tutto. Il posto c'è, puoi accendere il computer, se vuoi accendere il computer, intanto io ti sistemo con la radio. Te lo vai quando vuoi, sono Antonio, è morto, non puoi fare tu. Io sono a casa, io sono tutte le sere a casa, non vado mai da nessuna parte, quindi non c'è bisogno neanche di telefonare, lo sai, no? Quando ti riposi dopo le 5:30 te ne sali, prima della ricerca, verso le 7:30 te ne scendi, qual è il problema? E siamo tutti i 7 piazzi. Non c'è problema qua, non c'è problema, l'unico problema è che devo staccare, vabbè, insomma, non mi crei disagi, diciamo, e cambiati al Kevin, vabbè, ci aggiorniamo magari domani, là, vediamo un po', dai, spero di non avere imprevisti, come sempre, a domani, là, buonanotte. Ascolta, ma non devi staccare assolutamente niente, non mi serve neanche l'alimentatore, perché ho passato i cavi, un cavo che uso per fare delle prove con le manomette eccetera. Prima una cosa, quella radio lì, lo sai, io ce li ho tutti di quella marca, c'ha quella spinettina a 2 che entra e esce. C'è la spinettina a 2 che entra e esce, eh? Il cavo di alimentazione di quella radio lì, quella delle C, no? Quella che vuoi memorizzarti. C'è il cavo rosso e nero, attaccato alla radio c'è un pezzettino di cavo con una spinetta bianca e l'altra spinetta bianca che entra su quella lì e nel cavo che va a attaccare l'alimentatore, così è. È separato, sì, c'è un cavetto per il cavetto che va attaccato alla radio, un pezzettino sarebbe. di centimetri. E pure fate lo spezzo grosso, sì. Allora non c'è bisogno neanche di staccarlo dal rallentatore. Perché le rode andate alla rallentatore è mio che vuoi, non c'è problema. Perciò quando vuoi salire, stacca la spinetta e lascia il pezzo attaccato alla radio e poi attacco la spinetta mia. Tranquillamente. Perché avevo sentito che abbiamo messo capo in corda qua, li ha fatti comprare tu. Sono quelli spaccati, non sono quelli chiusi. Non sono quelli all'anello. Allora mattino giro la pacca, allora non mi crea un problema. Io pensavo che tu non portare l'alimentato nessuno qua, capito? Poi ci mi ha detto che è tuo, allora va bene. La cosa si può fare. Non fa qui l'altro giorno con Antonio perché abbiamo avuto lo stesso problema. Ci ha portato il mobile come abbiamo adattato il microfono, mi sono rotto la pelle, ho preso due cavi e li ho tirati fuori dall'alimentatore Kenwood e li ho lasciati per fare le prove. Non sono collegati a nessuna parte, c'è un rosso e nero rosso con le due manette, capite? Quindi non c'è problema, non ti preoccupare, porta solo la radio. Quando vuoi, ti ho detto, io sono a casa dopo le 5. Sono disponibile a tutti, non c'è nessun problema, portalo, così lo tagliamo, lo proviamo, lo mettiamo sotto strumento, facciamo tutto quello che vuoi. E quindi contro mi sembra i batti che viene messo, voilà. Ce ne dà 25 in 50 di V. Vabbè, caralho, che io non è che dico qua prendo domani, se non mi entra a fare, ho fatto come lo faccio, non mi guarda nulla, va. Ci mettono 5 minuti in moto a salire, lo sai, un attimo ti sguazzando. Vabbè, va. Ah, ci metto la lamentia. Non mi fico. Anzi, io ho fatto le 4, non so cacchio di computer. Vabbè, non sto lavorando, sennò di sera non abbiamo dei sogni. A domani che ci torniamo, ok? E io ci aggiorniamo domani, ciao, buonanotte, saluti a casa, buonanotte a tutti. Ho cambiato al centro, grazie, ciao, buonanotte.